Rock FM. Riascoltata con SOS Anything But Love, c'è Corey Taylor degli Slipknot, c'è il cantante dei Three Days Grace, c'è Till Lindemann, cantante dei Rammstein, in una versione molto bella e particolare di Helden, ovvero Heroes di David Bowie. È un album molto interessante, molto bello. Ovviamente gli Apocalyptica poi dal vivo non possono avere tutti questi ospiti, quindi tornano a suonare nella loro maniera, quella classica, quella tradizionale. 13.37, ancora insieme per pochi minuti, poi ovviamente ci sarà Max De Rio. Saluto Max. Andrò su YouTube e mi guarderò le tue impennate rock. Saluto anche Lillo, un bacione, Max da Fucecchio. Luca da Milano dice: ma vogliamo parlare di grandi botte? 5 costole più spalla destra, collare per 20 giorni e un CBR 1000 nuovo di pacca nel cestino. È rock o no? Mamma mia, sì. Un po' troppo forse. Gabriele da Firenze, felicissimo di risentirti ancora. Ti piace il nuovo singolo dei The Flappard? Sì, non male, non male, il loro stile classico, insomma. Lo Sbolone dice, ma che poeti ho io all'ascolto? La NASA ti sta cercando perché hai rubato 2 stelle del cielo e le hai messe al posto dei tuoi occhi. Non restituirle. Ma questa è un po' tipo se il... No, come era? Aspetta. Se il cielo fosse carta, il mare fosse inchiostro, non basterebbe per scriverti il mio amore. Ne ho un paio di queste che, insomma, ti impiantavano forte. Grazie, Sborone, sei veramente molto gentile. A proposito di momenti romantici, di personaggi molto romantici, barra teneri, lui in fondo lo è, parecchio. Ah, sì. Stiamo parlando di Marilyn Manson, che ascoltiamo con The Nobodies. I don't want questo momento la voce che avete sentito anche per anni. Qui però con la sua band, ovvero i Pay, del nostro DJ Ariele, riascoltati con la cover di Pet Sematary. C'è anche un video molto carino. Dopo aver visto il video sono arrivata alla conclusione che Rob Zombie in confronto veramente nessuno, anzi Rob Zombie dovrebbe smettere, perché il video dei Pay nuovo è bellissimo. Guardatelo. Dove? Non lo so, chiedetelo al DJ Ariele. 13.45, saluto Lalu. Dice, ma secondo te quanti speleologi ascoltano Rock FM? Quelli stanno nelle grotte. Però mi è arrivato questo messaggio da parte di questo ragazzo e poi, cara Lu, forse non ti sei accorta nel corso di questi 18 anni di Rock FM che le nostre frequenze sono qualcosa di eccezionale, arrivano anche nelle grotte. Beh, la nostra frequenza di Milano poi è qualcosa di meraviglioso. Non regge in tangenziale, ma nelle grotte assolutamente sì, quindi... No, non lo so, ma magari nei momenti liberi ci ascoltano. Saluto anche Yuri Ravenna, che ha riconosciuto i Pay in questa versione di Pet Sematary. Ora vi lascio con il nuovissimo singolo per i Bauhaus, questa Too Much 21st Century. Poi quella di Peter Murphy è bellissima ed è la sua, in grandissima forma. Bauhaus con il nuovo singolo Too Much 21st Century. Bauhaus che hanno pubblicato da poco anche un nuovo album intitolato Go Away White. La brutta notizia è che non hanno assolutamente intenzione di far tour o comunque di fare un altro album in futuro. Speriamo che queste voci vengano smentite al più presto, però insomma, secondo me il tour non si farà. Peccato anche perché l'ultima volta che li ho visti all'Alcatraz di Milano, 2, 3 o 4 anni fa, hanno fatto un grandissimo concerto, lui era veramente in forma, bella la scenografia, quindi da 1 a 10, 1000. Grandi, grandi Bauhaus. Parliamo invece dei Metallica. Dal 12 maggio è attivo il sito missionmetallica.com. Per il momento su questo sito si raccolgono i dati dei diversi fan dei Metallica che hanno deciso di iscriversi proprio a questo sito, che ripeto è missionmetallica.com. Voi vi iscrivete, in anteprima avrete un sacco di notizie che riguardano ovviamente la band. Per il momento vi possiamo dire che inizialmente il nuovo album dei Metallica doveva essere pubblicato nel mese di settembre, però ora pare che invece il nuovo album esca il 28 ottobre. Però ripeto, andate sul sito missionmetallica.com, registratevi e poi avrete le newsletter in anteprima. Metallica, questa Whiskey in the Jar. fatto diverse cover nel corso della loro carriera. Metallica, riascoltate appunto con la cover di Whiskey in the Jar, 13:55. Allora un paio di saluti e poi vi lascio con Max Rio. Saluto Daniele e Dude, sono in spiaggia, vi odio, nel senso buono ovviamente. Prendete un po' di sole anche per me, fate shuff shuff nell'acqua del mare anche un po' per me. Saluto Katti, Vic dice non preoccuparti per Mox, alla sera sta facendo veramente il bravo, ma su questo ovviamente non c'erano dubbi. Abbiamo già fatto gli auguri a Mox quest'oggi in diretta, anzi vi ricordo che oggi è il compleanno di Mox, questa sera fategli un sacco di auguri, mandategli un sacco di messaggi molto carini. Un bacio a Tia, sta a Firenze, finalmente riesco a sentire il nuovo singolo dei Bauhaus, l'album è uscito, sì, e quello di Siuxi, sì, è già uscito anche quello, non Siuxi and the Banshees, ma come Siuxi e basta. Saluto Shis da Firenze, saluto anche chi mi manda un messaggio bellissimo, Massimo da Viareggio, orgoglio di padre, al mare. Io dal campo da beach volley alzo una mano facendo le corna e chiamo i miei due figli, 6 e 5 anni, William e Sofia. Loro dal parco giochi pieno di mamme, da sopra lo scivolo, alzano le corna al cielo e gridano corna al cielo e fottuto rock and roll. Son soddisfazioni, grande Massimo da Viareggio, grandissimo, numero uno. Saluto anche Forlo da Imola, un bacione, saluto anche Yuri da Ravenna, poi tutti quelli che hanno mandato delle mail che per oggi, mannaggia, non riesco più a leggere. Qualcuno mi chiede, ad esempio Luca, i Sentence ormai si sono sciolti, ma tempo fa, cioè diversi anni fa, quindi basta. C'è stata qualche ristampa di un album, ma niente di particolare, caro. Allora io vi saluto, ci sentiamo domani ovviamente da mezzogiorno alle 14. Adesso vi lascio con l'ultima canzone e tra pochissimo, come ben sapete, con Max De Rio. Vi lascio con l'ultima canzone di quest'oggi. Sono gli Horrors, questa è Jack the Ripper, a domani. Tell us.